soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sono tornata a casa. Oh, bentornata Deborah. È tornata Deborah. Già potete vederla se ci seguite su Facebook. Ciao, ciao. Sulla nostra pagina 2 di Denari Radio 24 trovate anche finalmente il ritorno di Deborah Rosciani. Ma stavi comodo seduto da questa parte? Ma se sì, vuoi possiamo anche scambiarci qualche volta. Stavo abbastanza comodo, mi sentivo un po' solo, però come vedi ti ho fatto trovare lo studio in ordine. Tutto pulito, bravo. Sì, sì, bravo. Abbiamo fatto anche delle festicciole con gli amici, però poi abbiamo riordinato D'altronde, tutto. D'altronde, come ti ho già scritto su Facebook l'altro giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, ed eccolo qua. Però vedi che oggi è tutto in ordine, adesso ritorniamo nei ranghi, anche bravo. Io ritorno nei ranghi. Sono tornate nei ranghi anche le società di telecomunicazioni, un po' pungolate, però hanno avuto un po' una spintina gentile da parte di un emendamento. Sì, un nudge, come direbbe il recente il premio Nobel. Esatto, Thaler. No, sono tornate, ecco, adesso io non ti vorrei frenare, ma sai che sempre mi appassiona queste vicende normative. Ma allora, e questa è veramente divertente. Torneranno. Sì. Torneranno nei ranghi. Avete avuto la bolletta a 28 giorni dalle compagnie telefoniche o da altri fornitori di servizi? In questa simpatica prassi che era stata avviata nella scorsa primavera, ma era stata subito scoperta dalle associazioni dei consumatori che hanno provato a mettere un freno. Poi cos'è successo? E poi cos'è successo? Ci sono state anche ricorsi, interventi dell'autorità garante. I famosi corsi e ricorsi storici. Corsi e ricorsi al TAR più che altro. Esatto. Ma è arrivato il decreto legge 148, che è il decreto legge fiscale. Esatto. Già vedo che ti brillano gli occhi, cara Deborah. Esatto, no, soprattutto per il conteggio veramente avvincente che hai fatto di tutti gli emendamenti, anzi del conteggio che si fa degli emendamenti, certo, che vengono apportati a questa misura, no? Ma certamente, perché nel decreto legge 148, che come tutti i decreti legge deve essere discusso in Parlamento per diventare definitivamente legge dello Stato, ebbene è stato aggiunto un articolo che attualmente nella versione che è al vaglio della Camera, in attesa appunto del voto finale che ci aspettiamo. Ma sembra quasi che tu viva là, guarda, per quanto ne sai. Mi scuso perché mi faccio trascinare, sono addirittura coinvolto emotivamente da questa cosa, però devi sapere che lì c'è un articolo 19 quinquies decies. Sarebbe quindicesimo, esatto. Sarebbe quindicesimo. Nel senso, il quindicesimo comma di questo articolo? No, non funziona così. Allora, quando si aggiungono degli articoli nei decreti legge, per evitare di rinumerare tutto da capo, cosa si fa? Si dice, vabbè, c'era un articolo 19, adesso ne mettiamo un altro, lo chiamiamo 19 bis. Poi ne mettiamo un altro quater, quanti e ne così ha, via quanti contando. Quanti ne ha di appendici questo 19? Questo qui arriva fino appunto al quinquies decies, che è quello che ci interessa, che è delle bollette a 28 giorni. Lo abbiamo localizzato. Con un radar, il radar di Due di Denari ha localizzato la norma che ci interessa analizzare questa mattina. E detto infatti, questo, ecco, che succederà? Che lì c'è scritto quando diventerà legge dello Stato, quindi ripeto, più o meno intorno a metà dicembre, che non si possono fare le bollette a 28 giorni. Questa è la cosa che ci interessa. Entro quanto tempo, quando si dovranno adeguare le compagnie, che cosa potremo richiedere come utenti, come consumatori? È tutto quello di cui parleremo questa mattina, chiaramente con i nostri ospiti che tra un po' vi presentiamo, ma anche con la vostra collaborazione se ancora l'argomento vi incuriosisce o meglio vi indispettisce. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, se volete scriverci siamo sempre qua al 349 238 6666, riceviamo messaggi, WhatsApp, piccione viaggiatori, segnali di fumo e sì, naturalmente anche le generi email. Di conforto, ma anche email. Esatto, anche email all'indirizzo 2 di denari @radio24.it. Dove eravamo rimasti? Più o meno Mauro ha sintetizzato un po' tutto questo pandemonio che è successo sulle fatturazioni un po' più corte del previsto, sì, diciamo. Sì, no? Per sommi capi diciamo che la vicenda è andata così. È una vicenda tutta del 2017, peraltro. Sì, tutta quest'anno ce la siamo portata a casa. Guarda, io sia per, come dire, per l'ammirazione che nutro per il 19 quinquies decies, guarda, che è, come sei sappiamo, tutto un brivido. È un articolo che mi piace moltissimo. E sia anche per riassumere la vicenda, chiamerei in causa i nostri ospiti. Direi di sì. Guarda, allora intanto abbiamo l'amico Luigi Gabrielli, responsabile degli affari istituzionali di Codici, Centro per i diritti del cittadino, che risalutiamo perché ormai da mesi ci fa compagnia su questo argomento, si è affezionato. Anche lui si porta un po' la norma a dormire, come fai tu, Mauro. Vero Luigi, buongiorno intanto. Buongiorno, ma io non vado mai a letto senza aver fatto il ripassino sui 28 giorni. Esatto, sull'argomento. No, anche perché tra l'altro c'è uno step che a me, Mauro, non è chiaro e adesso te lo chiederemo, Luigi. E poi salutiamo anche l'onorevole Alessia Morani, deputata del PD. Intanto la ringraziamo per essere ritornata con noi. L'avevamo già scomodato sulla faccenda la scorsa estate, che in piene vacanze appunto pure lei si studiava un po' come erano andate le cose. Buongiorno onorevole Morani e benvenuta. Grazie. Buongiorno a voi. Sollecitata, grazie per avermi reinvitata. Sollecitata dai consumatori, insomma, si è presa a cuore la vicenda e l'ha portata avanti fino all'evoluzione di questi giorni. Allora Mauro, ricordiamo proprio i passaggi fondamentali. A marzo un grande operatore della telefonia italiana adotta la tariffazione a 28 giorni, sì, secondo il principio dello ius variandi, cioè variazione unilaterale del contratto. È una facoltà delle aziende. Contratto. Naturalmente poi resta al consumatore la facoltà di andarsene. Esattamente. Peraltro da lì a poco seguirono tutte le altre grandi compagnie. In estate seguì anche il più grande operatore di pay TV in Italia e questo naturalmente fece un po' arrabbiare le associazioni dei consumatori, che si accorsero immediatamente di quello che stava accadendo, se non fosse altro per il fatto che ciò comportava naturalmente una bolletta in più nel corso, sì, dell'anno, e un aumento dei costi. Qui, esatto, andiamo su aumenti che arrivano a quasi al 10%, esatto, così, sì, secondo una stima grossolana. 8,5 circa. Detto questo, sono partite anche naturalmente tutte le contestazioni, le segnalazioni alle autorità competenti e soprattutto Luigi Gabrielli, una bella segnalazione alle autorità, al garante delle comunicazioni e all'antitrust, se non mi sbaglio, no? A cui poi si sono opposte le società che fecero tutti i loro ricorsi al TAR del Lazio. Su questo punto non ci ricordiamo bene con Mauro com'è finita, aspettiamo qualche pronuncia. Intanto, adesso, a prescindere dall'emendamento fatto alla legge di bilancio, dal punto di vista degli interventi delle autorità, dove siamo? No, aspettiamo ancora il pronunciamento del TAR, probabilmente ci sarà a febbraio. Diciamo che è anche un po' la scusa che ha portato gli operatori a dire: no, ma noi aspettiamo il TAR, poi decidiamo che cosa fare. Allora noi abbiamo detto: va bene, allora noi non aspettiamo né il TAR e né voi, facciamo la testa nostra, è quello che poi alla fine abbiamo fatto. Proprio per il motivo del ricorso al TAR che siamo partiti con la revisione normativa. Se non ci fosse stato questo, in qualche modo gli operatori hanno fatto un errore strategico straordinario, non saremmo andati avanti. Io tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare anche voi, perché voi non sapete, il 2 di denari in questa storia c'entra come il 2 di coppe, nel senso che e non il 2 di picche, verrebbe da dire. E tutto questo, se fossimo al gioco dei 3-7, noi siamo stati il lasso di denari, ma grazie anche in qualche modo al contributo che avete dato voi. C'è stato nella discussione, nel dibattito estivo, che ci siamo incontrati poi con l'onorevole Morani, che abbiamo portato in qualche modo a casa questo risultato che poi vi racconterò. Mm-hmm. Allora, quindi, diciamo, dal punto di vista dell'intervento delle autorità, aspettiamo il pronunciamento definitivo di febbraio, no Mauro? Se del non ho capito, ma del TAR, sì, esatto. Dobbiamo aspettare questo, però in realtà appunto il meccanismo, ma adesso io lo chiedo direttamente all'onorevole Morani, il meccanismo che si prefigura nel decreto legge fiscale, e quindi che sarà poi vigente da dicembre, è quello che ci sono 120 giorni dati agli operatori per adeguarsi, con il che insomma si va a coprire anche il periodo dell'eventuale decisione del TAR. Mi immagino che questo poi, per usare un verbo un po' forte, travolgerà qualsiasi tipo di decisione possa venire al tribunale amministrativo. È così, onorevole? Ma più che altro questi 120 giorni nascono per su richiesta, insomma, delle società di telecomunicazioni, che, non credendo inizialmente che saremmo arrivati fino in fondo e avendo cambiato tutti i loro software sulla fatturazione a 28 giorni, si sono trovati invece di fronte ad una dura realtà, e cioè quella che la norma diventerà legge entro metà dicembre, come avete anticipato, e si trovano quindi nella condizione di dover di nuovo cambiare tutti i loro software aziendali, tornando alla fatturazione mensile, per cui questo termine ci è stato richiesto per consentirgli l'adattamento al ritorno del vecchio sistema, per cui non c'entra tanto il ricorso del TAR quanto una esigenza organizzativa delle società che insomma sono coinvolte in questa norma. Perché, ripeto, la cosa curiosa è che quando in estate, insieme a Luigi e insieme a Radio 24, in particolare a Giudi Denari, ci siamo occupati della cosa, le società telefoniche e anche la pay TV hanno fatto spallucce, nel senso che non ci credevano proprio che ci saremmo arrivati fino in fondo, perché insomma questa è tanta roba, sono colossi veri, non è che sono diciamo delle... Si calcola che quest'anno complessivamente abbiano guadagnato 1 miliardo di euro appunto, tra tutte, quindi è chiaramente in gioco. Per cui non ci hanno creduto granché, cioè vabbè, è arrivata sta fenomena, presenta il disegno di legge, ma tanto con il bicameralismo perfetto se la rimpalleranno di qua e di là se in finale di legislatura, visto che tanto col referendum non sono riusciti ad abolirlo, adesso se la vedono loro col bicameralismo. Però c'è il problema che c'è il decreto, e il decreto che tra l'altro passerà inalterato alla Camera, per cui verrà confermato lo stesso testo del Senato. Per cui diciamo abbiamo fatto un bel gol, o abbiamo calato l'asso di briscola, per stare il gergo di denaro. Venite qua che ci facciamo una partita a carte tutti e quattro, così almeno ci divertiamo un po', insomma. Indirettamente l'onorevole Borrelli ci dà una notizia, quindi non ci saranno ulteriori modifiche, parlo solo del 19 quinquiesdecies che oramai conosciamo tutti benissimo, riguarda tutti, ma su tutto il decreto legge 148 così come è uscito dal Senato, così sarà confermato dalla Camera, perché sì, c'era l'ipotesi. Sì. Il decreto sì, mentre la legge di bilancio invece il testo sarà oggetto di modifiche anche alla Camera. Sul decreto, insomma, stando le notizie che io insomma non dovrebbero esserci modifiche. Sì, perché invece si era ventilato di fare ulteriori interventi, eccetera, eccetera. Ma su quello c'è la legge di bilancio, non il decreto. Quindi il veicolo diventa la legge di bilancio. Questa, cara Deborah, per noi appassionati dei quinquiesdecies e dintorni. Mi aspetto uno dei tuoi prestigiosi editoriali domani mattina sul Sole 24 Ore, come quello che già firmi questa mattina sul tema che hai affrontato ieri sul denaro lampo, il bonifico lampo. Allora, il tema adesso... Sì. Tutto è oggetto, come dire, di modifiche, però per le notizie che ho io insomma non dovrebbero esserci modifiche. Certo. Allora, tante segnalazioni da parte dei nostri ascoltatori. Mauro alle 349-238-6666. Intanto c'è un abbraccio a tutti noi da Marco dal Brasile, e lui lo salutiamo, non ha problemi, vuole solo salutarci. Altri ascoltatori dice: perché non avete il coraggio di dire che è stato l'operatore telefonico? Allora, il primo è stato siccome non ce ne abbiamo 200 qua, non è che ci vuole tanto a ragionare, ne abbiamo 4 importanti e la pay TV che è quella, per cui è lo stesso tema che mi si è posto quest'estate. Fate i nomi se avete il coraggio, sono tutti che l'hanno fatto, quindi si sono adeguati tutti i grandi operatori, quindi non lo so, fate guardate i contratti, guardate le pubblicità che ci sono in giro. Allora, quali sono le questioni aperte per gli ascoltatori, Mauro? Quelle intanto relative al fatto di chi ha già teoricamente pagato qualche piccolo aggravio per questa fatturazione breve, e c'è nella misura di cui parlavate prima, nel non lo so neanche pronunciare. In realtà c'è un'indicazione di rimborso forfettario a tutti i consumatori che sono stati penalizzati da questa pratica. Di 50 euro, sì. Esattamente, sentiamo se è confermata. Seconda cosa, chi ha il dispositivo agganciato all'abbonamento che ha questa fatturazione breve, vuole recedere, ma fa un po' di difficoltà naturalmente, perché non è molto veloce la pratica di recesso in questo caso. Perché qui cosa succede, ma forse ce lo può spiegare meglio anche Luigi Gabriele, il fatto è che spesso uno acquista l'apparecchio, il telefonino, però viene vincolato a un contratto di qualche anno. C'è Antonio da Udine proprio con un caso come questo, per cui guardate, mettiamoci dentro la sua testimonianza, così arricchisce il nostro programma ulteriormente. Antonio, benvenuto. Sì, buongiorno. Disturbo. Allora, io sono diventato cliente TIM a dicembre, più o meno, telefonia fissa, a dicembre dell'anno scorso circa. E dopo, in marzo, è arrivata a casa questa lettera che portavano i costi da bolletta da mensile a 24 settimane, e c'era scritto che si poteva recedere senza costi. A quel punto ho chiamato il 187 per recedere. Lui se ne è accorto subito, hai visto, bravo. Sì. Ecco, in realtà il 187 mi ha fatto terrorismo, l'ho chiamato due volte dicendo che in realtà la mia uscita non era indolore perché avevo dei costi, perché in realtà dovevo pagare qualcosa, ad esempio il modem sì, con certo. La team lo pa- allora, volevo capire se era, no, perché cioè, a quel punto mi sono bloccato e ho fatto le promace e ho continuato a pagare. Qui io proprio mi rivolgo a Luigi Gabriele, nel senso, è molto comune questa cosa di avere delle penali o di, se uno recede prima da un contratto come questi, appunto, che sono stati sottoscritti a 28 giorni e però sono legati all'acquisto di un spesso di un telefono cellulare, ma come è il caso del nostro ascoltatore, del modem, uno si ritrova delle, chiamiamole penali, forse è un po' improprio il termine, però insomma il senso è quello lì, dei costi extra per andarsene. Gabriele, qui come ci possiamo regolare? Ma guardate, questo è il grande problema. Speriamo che anche oggi da questo programma usciranno fuori altri due impegni che perlomeno noi ci prenderemo, però anche di nuovo la nostra il nostro onorevole Morani, per portare avanti due questioni. Uno, che col tempo gli operatori della telefonia hanno trasformato delle semplici ricaricabili in abbonamento. Nel momento in cui tu fai acquisti un telefonino, anche se hai una ricaricabile, sostanzialmente lo stai trasformando in un abbonamento e quindi di conseguenza va ad acquisire delle caratteristiche di natura contrattuale che introducono tutto ciò che abbiamo appena sentito: costi per il recesso, costo per eventualmente dover pagare interamente il device, che sia uno smartphone o un tablet. È ingannevole? Sì, è ingannevole, però purtroppo le norme permettono di poter, in Italia, essendoci lo ius variandi, di poter comunicare al soggetto che se non vanno bene determinate condizioni ha un tempo per recedere. Il recesso non è indolore, proprio per questo noi abbiamo introdotto questa norma, perché da oggi in poi auspichiamo che nel momento in cui pensano di poter introdurre una modifica contrattuale che ha un aggravio, ci pensino 100 volte, perché sanno che c'è un aumento delle sanzioni da parte delle autorità e soprattutto un indennizzo diretto da parte dei consumatori. Fino ad oggi perché si facevano queste cose? Perché non c'erano delle sanzioni adeguate e non c'erano degli indennizzi diretti. Tra l'altro colgo l'occasione per spiegare ai consumatori che ogni volta che stipulate un contratto di natura telefonica, sia fisso che mobile, il modem non è obbligatorio comprare il modem del vostro operatore, mentre sempre più spesso ci viene segnalato che i consumatori sono quasi obbligati a dover prendere o quel modem, altrimenti non se ne fa nulla. In questo lancio la palla all'onorevole Morani, noi dobbiamo recepire una normativa europea che sono 2 anni ferma al Senato, che proprio fa sì che anche in Italia venga recepita la direttiva europea che stabilisce che quando un consumatore fa un contratto di telefonia fissa o mobile non è obbligato in nessun modo a dover acquistare un modem che, tra l'altro, vai a vedere il valore di mercato, sono circa 15-20 euro, ma ti viene venduto sul contratto con cadenza mensile, arrivi a pagarlo anche 200 euro. Sì. Allora, Alessia Morani deve diventare adesso la super esperta italiana di telecomunicazioni. Ci aggiungo anche un'osservazione che ci arriva su WhatsApp di un grande amico dei nostri programmi, che è Gianfranco Giardini, è stato anche ospite di Due di Denari qualche giorno fa per parlare del digitale terrestre 2.0, dei nuovi televisori che adesso dovremmo comprare da qui a qualche anno, naturalmente a qualche tempo, che segnala che loro in dday.it, che è la rivista esatto, che viene pubblicato sul sito, su internet, esattamente, molto specializzato su questi argomenti, racconta che il grande operatore di telecomunicazioni italiano da cui tutto è partito la scorsa primavera in realtà è passata con le prime tariffe a 28 giorni da più di 2 anni, ma soprattutto, lui dice, noi lo avevamo scritto e molti hanno sottovalutato, adesso ho però una domanda: ora che passeranno a mensile, aumenteranno il canone? Cioè, quindi in qualche maniera c'è il rischio che questo 8,6% che viene sottratto e che teoricamente avrebbero guadagnato con la fattura a 28 giorni la rimpiazzeranno in un'altra maniera? Le associazioni dei consumatori, Luigi Gabriele, dovranno vigilare anche su questo. E comunque sono aziende, possono fare quello che vogliono, possono anche aumentare i costi del 200%, poi sta a noi consumatori scegliere con chi stare. Ma guardate, questa vicenda dei 28 giorni è stato un grande fallo da parte degli operatori, perché hanno fatto acquisire ai consumatori e soprattutto a noi associazione una grande consapevolezza, che fino ad oggi abbiamo sottovalutato, che era quella: tanto sono 2 euro, tanto sono 3 euro, lasciamoli fare. Adesso non li lasceremo mai più fare, soprattutto perché finalmente abbiamo trovato nella politica un alleato che ha compreso il valore di difendere il consumatore anche sotto il profilo normativo. Gli operatori fino a qualche tempo fa, per quello la Morani prima dicevano, non pensavano, facevano spallucce, sono organizzazioni che hanno fondi per fare un'attività di lobby e di comunicazione straordinaria. Noi non avevamo una lira, eppure abbiamo portato a casa un provvedimento che reintroduce in qualche modo il rispetto da parte degli operatori delle normative. Certo. In Italia gli operatori, li faccio i nomi, TIM, Vodafone, Wind, H3G, Sky, sono abituati a poter mutare le condizioni contrattuali come ritengono più opportune, perché tanto sanno che l'autorità di regolazione al massimo potrà fargli una sanzione che ha un effetto dello 0,0. Che loro mettono poi in bilancio. Oggi la nostra forza è stata proprio quella, non solo di intervenire sulla fatturazione a 28 giorni, ma rafforzare queste sanzioni e soprattutto introdurre degli indennizzi. Adesso ci penseranno 100 volte prima di fare un qualcosa di storto a centinaia di migliaia di consumatori, perché sanno che devono indennizzare ogni singolo consumatore, e questo significa avere dei bilanci molto più tutti rispetto a prima. Allora, io vi fermo un attimo, però vi preannuncio all'onorevole Morani che ho un paio ancora di curiosità su come è strutturata questa parte appunto dell'articolo che sta per entrare in vigore, e ad esempio riguardano il fatto che il periodo mensile dovrà costituire il periodo standard, quindi dovremo avere dei contratti che saranno offerti innanzitutto sul periodo mensile, poi ovviamente ogni operatore potrà fare temporalità che più gli aggradano, però dovranno essere trasparenti. E poi c'è il collegamento con la legge concorrenza, quella di fine agosto scorso, che pure introduce delle norme di maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori. La legge 124? Bravissima, guarda, sei una soddisfazione, Deborah. Allora, quando mi applico, guarda, sei stata così brava che adesso ti ho vinto i mercati. Ti faccio raccontare come vanno i mercati. Poi c'è tra anche poco. Salvatore da Siracusa, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. Tintarella di luna, tintarella con un latte. Perché? Ti vedo perplessa. L'hai scelta tu? Certo, ma perché la luna, i 28 giorni, le fasi lunari. Non ci sarei mai arrivata se mi avessi fatto. Che si impara a scuola, mi avessi fatto saperla. Se mi avessi fatto il quizzettone del giovedì, non ci sarei mai arrivata. E così non avresti vinto neanche il premio. Allora, io ho un quizzettone invece per i nostri amici. Alessia Morani, prima di far intervenire i nostri ascoltatori che già ci hanno sono in linea, ci hanno telefonato. E c'è anche un altro ospite che tra un po' presentiamo. Che adesso, a cui adesso daremo la parola. Ma onorevole Morani, questo indennizzo dei 50 euro, poiché dal dettato normativo non se la prenda, ma non è chiarissimo come dovrebbe funzionare. Perché non ha scritto lei, naturalmente. Allora, intanto quello funzionerà per il futuro, poiché non è retroattivo. Con Luigi Gabriele e le altre associazioni dei consumatori ne abbiamo già parlato. Però dal momento in cui la Agcom eroverà la sanzione, poi a quel punto possono partire le class action da parte delle associazioni dei consumatori, e chi deve avere il rimborso per quello che insomma ha pagato in più in questi mesi può ottenerli in quel modo. Non potevamo certamente fare un provvedimento di natura retroattiva, perché poi avremmo trovato altri tipi di problemi sulla ammissibilità o meno della norma. Sì, la fermo perché allora questo è importantissimo. I 50 euro che compaiono nella legge che diventerà, in quello che diventerà legge a metà dicembre, non sono un indennizzo che vale per il passato, varranno per eventuali pratiche scorrette in futuro. Mm-hmm. Esatto. Però che cos'è che è importante? Che in questa legge noi abbiamo fissato alcuni principi fondamentali, intanto ulteriori obblighi di trasparenza, oltre naturalmente alla legge sulla concorrenza che già avete ricordato, dove si dà la possibilità al consumatore di ricevere dal contratto con le stesse modalità con cui lo ha sottoscritto. Quindi significa che se è stato sottoscritto online, ad esempio, passa una mail, per cui questo diciamo è una facilitazione rispetto alle pratiche del passato, in cui oggettivamente quando ognuno di noi si è trovato a dover magari disdire un contratto di telefonia o anche di pay TV con qualche compagnia, ha dovuto fare il giro delle sette chiese, mentre abbiamo semplificato le modalità per recedere dai contratti. Volevo dire anche qualcosa rispetto alla questione dei telefonini legati agli abbonamenti e alle penali che poi vengono pagate. Rispetto a questo, sì, anche se in realtà il dispositivo che ha più problemi è il modem legato probabilmente all'abbonamento internet in casa. Esatto, rispetto a questo, ma soprattutto perché ho tanti giovani che hanno gli smartphone, mi hanno sottoposto questo problema, no, del passaggio da una compagnia all'altra quando poi si trovano a dover pagare la penale per il telefonino. Su questo secondo me potremmo fare un ragionamento assieme, con Luigi ne abbiamo già iniziato a parlare in qualche incontro che abbiamo fatto, e cioè di riuscire a separare quello che di fatto è un credito al consumo, perché di questo si tratta nell'acquisto di un modem o di un tablet oppure di un telefonino, da quello che è l'abbonamento, per cui potremmo cominciare ad immaginare come scrivere una norma che risolva anche questo problema. Volevo poi dire un'altra cosa e poi mi taccio, perché naturalmente ci saranno altri che vorranno intervenire. Lo sa che è molto delicato questo il periodo per parlare con voi, perché ormai per tutti è partita la campagna elettorale, quindi promuoverla così per tutta questa bella azione che ha fatto è un po' complicato per noi, onorevole. Sì, immagino, no, volevo solamente dire una cosa. Sto scherzando, ovviamente, ci mancherebbe. L'operazione che abbiamo fatto sul raddoppio delle sanzioni e soprattutto legarle ad un indennizzo, ad un rimborso, va nella direzione di aver assolutamente intanto capito che le sanzioni così come erano dal 95, non essendo mai state ritoccate, erano acqua fresca per queste compagnie che invece hanno dei ricavi miliardari, per cui raddoppiarle si dà un segnale in quel senso là. Però il raddoppio della sanzione non è sufficiente, perché se non li si tocca nel loro interesse vivo, che è appunto quello del guadagno, e cioè nell'obbligarli a indennizzare il consumatore, di fatto con raddoppio della sanzione non avremmo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, per cui legare le due cose è un principio importante che magari nel prossimo futuro può essere utilizzato anche per altre cose. E qui lancio un messaggio a chi ci ascolta. Prego, prego. No, lancio un messaggio. Ah, ecco, l'ha già lanciato. Cioè, attenzione, perché le furberie sono sempre alla finestra in Italia, no? Però bisogna starci attenti, perché poi le furberie ogni tanto ci si rimette anche un po' di soldi. Quindi se qualcuno magari ha in mente, a proposito di aumentare le tariffe dopo il passaggio dai 28 ai 30 giorni, chi ci ascolta sappia che stiamo già monitorando la situazione, perché non è che fatti i 30 giorni delle bollette ci fermiamo lì che siamo soddisfatti, no, adesso c'è la fase 2. La fase 2 consiste nel monitoraggio degli aumenti, poiché se si ripresenta di nuovo un cartello, perché di fatto quando hanno fatto i 28 giorni tutti assieme hanno fatto un cartello, se rifanno il cartello sugli aumenti delle tariffe, poi dopo noi agiremo naturalmente con le autorità preposte, che sono sia la GCOM che l'antitrust, nella verifica puntuale di tutto quello che sta succedendo, che si sappia che non mogliamo l'osso. Allora, intanto per gli ascoltatori che chiedono: ma non avete interpellato gli operatori di telecomunicazioni, Mauro? No, lo abbiamo fatto? No, in realtà abbiamo interpellato Astel, cioè l'associazione che li rappresenta. L'Astel ci ha risposto, ci ha ringraziato del coinvolgimento, ma preferiscono non intervenire, e devo dire la loro motivazione mi sembra assolutamente condivisibile. Dicono: noi siamo intervenuti nel momento in cui c'era un contrasto giurisprudenziale, quindi il TAR e così via, al TAR, ma della a questo punto della siamo davanti a una indicazione parlamentare, una norma di legge, e quindi aspettiamo che questa norma diventi legge, e questa è la nostra, per ora, è la posizione appunto di Astel. Poi vedremo se una volta che avremo la norma definitiva Astel vorrà intervenire. Naturalmente sarà la benvenuta qui, certo, a Due di Denari. Esatto. Adesso invece della briscola dobbiamo aprire una partita di scala 40, perché si aggiunge a noi Massimiliano Dona, l'avvocato Massimiliano Dona, che è presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che salutiamo. Buongiorno. Eccoci, buongiorno a tutti voi. Un'altra associazione dei consumatori che è stata molto attiva in questa battaglia, che ha prodotto appunto questo risultato dal quale siamo partiti oggi, del quale si è parlato molto negli ultimi giorni e che naturalmente abbiamo voluto noi prontamente spiegare ai nostri ascoltatori. Avvocato, noi abbiamo fatto tutta la cronistoria delle puntate precedenti. Dal vostro punto di vista, che cosa sarà necessario monitorare da qui in avanti in questa battaglia? Poi racconteremo anche del vostro premio Dom, che è pronto ad essere consegnato a Roma nell'ultima parte di Due di Denari. Quando durante quest'estate abbiamo lanciato la petizione no fattura 28 giorni, non ci aspettavamo, devo dirti Deborah, un tale successo da parte dei consumatori, e non perché l'ingiustizia che stavano subendo non fosse gravissima, ci siamo poi attivati in tutte le sedi opportune, dall'Agicom all'Antitrust, ma perché purtroppo spesso noi cittadini siamo un po' pigri, un po' rassegnati, e quindi questo è un merito in più per Alessia Morani. Io gliel'ho anche detto pubblicamente l'altro giorno quando abbiamo presentato alla stampa questi risultati, è quello di aver attivato una nuova sensibilità da parte dei cittadini, di solito rassegnati e inclini a pensare che tanto alla fine i più forti la spuntano sempre. Questa volta non è stato così, grazie alla pressione che abbiamo fatto anche noi con l'aiuto di Alessia, anche mediaticamente devo dirti, perché poi alla fine parliamo di aziende che si vendono come negli spot che tutti noi vediamo all'ora di cena, come grandi amici, no, dei consumatori, con questi spot sempre pieni di sorrisi e pieni di rapporti importanti. Ecco, l'etica dell'impresa forse questa volta è stata salvata grazie all'intervento del legislatore, e molto di più ci aspettiamo per il futuro. Tu mi chiedi cosa chiediamo, cosa auspichiamo per il futuro. Vedi, Axel oggi ha deciso di non parlare, invece purtroppo stanno parlando e molto i singoli operatori, e lo stanno facendo con il marketing, talvolta subdolo, che somministra offerte natalizie nelle cui pieghe si nascondono aumenti. Con le stesse migliaia di cittadini che hanno aderito alla petizione dell'Unione Consumatori oggi ci dicono bravi, ma cosa succederà per il futuro? Non rischiamo che gli aumenti entrino dalla finestra? Allora qui il compito non è del Parlamento e della pur brava Alessia Morani, ma è dell'autorità antitrust che abbiamo già investito, perché il rischio davvero che gli aumenti surrettizi che hanno provato a somministrarci attraverso il cambio della priorità delle bollette non tornino in altra forma. Su questo abbiamo già invitato i consumatori a segnalare sul nostro sito ogni possibile scorrettezza, perché davvero è un tema di etica. Quindi sul nostro sito consumatori.it c'è la possibilità di mandarci proprio le foto di eventuali campagne scorrette. A me piacerebbe una gara. Aspetti, avvocato Dona. Avvocato Dona, aspetti, perché ci dobbiamo fermare un istante. Abbiamo le informazioni sulla viabilità e torniamo subito con Due di Denari. Adesso traffico. Due di Denari. Piange il denaro. Quanto mi commuoveva questa canzone. Ma se non eri neanche nata, lascia stare. Sono nata in tempo per sentirla. Sono i consumatori che piangono qua sempre, mannaggia. Sentiamo Salvatore da Siracusa. Salvatore, buongiorno, benvenuto. Salvatore. A voi. Senta, stavo telefonando per intervenire a proposito della fatturazione dei 28 giorni. Ieri, casualmente, andando sul sito di una compagnia telefonica, non faccio nome, ho visto che di già hanno aggiornato dove c'era scritto in 28 giorni l'abbonamento, mettiamo, è 25 euro, però se passerà 30 giorni invece da 25 sarà 28,50. Eccolo per là. Se andate nel sito di questo, vabbè, non faccio nome, è uno dei grossi, dai. È uno dei grossi. E di già hanno aggiornato. Ora gli altri si adegueranno, quindi in poche parole non cambierà nulla, perché se 28 giorni paghiamo 25 e a 30 28, quindi quei 3,50 euro loro spalmano nelle 12 la differenza della tredicesima. Grazie Salvatore. Mettiamoci insieme anche Giovanna da Parma, va, così ricommentiamo tutti questi casi, ma qua veramente se dessimo l'opportunità a tutti di parlare, ci sono miriadi di casi. Giovanna. Buongiorno, io sono un po' come il signore Salvatore, perché anch'io chiamavo appunto perché mi hanno telefonato, c'è certo un aumento nel gestore di addirittura 13 euro al mese. A lei gliel'hanno comunicato, quindi non è dovuta andare a cercare di sua spontanea iniziativa l'informazione, ma gliel'hanno gentilmente fatta sapere. 13 euro mi sembra tantissimo, ma esatto, perché? Perché è un uso aziendale. No, è un privato, un fisso di casa. Io calcoli che a bolletta spendo tra i 76 e i 78 euro. Quindi diciamo una bolletta, tutto compreso, cioè varie anche imposte, IVA, quant'altro? Non me ne hanno parlato, hanno detto 12,90 così al mese. No, la domanda era sui 78 euro che lei ci diceva. Tutto compreso, cioè, tutto compreso, quindi non solo di consumo. Quindi il consumo è molto basso. Sì, infatti era un ottimo prezzo. Io non so se io chiamavo appunto perché dicevo, se tutti i gestori sono così, allora rimango nel mio. Se invece sì, sì. Sì, no, perché poi anche cambiare, anche perché il cambiamento è un altro calvario, sì. Ecco, su questo, allora, grazie Giovanna. Una cosa, Deborah, è vero però la legge 124, cioè la legge concorrenza, consente proprio questa cosa, cioè che tu devi poter cambiare con lo stesso mezzo con cui ti sei abbonato. Allora, ti sei abbonato via internet, devi poter disdire via internet, non ci deve essere quella via crucis del, del consumatore che se ne vuole andare, quindi deve mandare fatture, spedire, saltellare su un piede solo, eccetera, eccetera. Però io volevo chiamare in causa ancora Massimiliano Donna, perché gli ascoltatori qui ci pongono poi alla fine un problema che è emerso anche nella conversazione con Alessia Morani. L'antitrust, cioè è normale che le aziende si facciano concorrenza e adesso dovranno essere obbligate a offrire come standard i 30 giorni, benissimo, dopodiché sono libere di offrirci dei contratti con costi in una voce, magari senza costi in un'altra e così via, e questo fa parte della concorrenza. Ma l'autorità garante della concorrenza, quindi, non poteva anche intervenire un po' prima o in ma, qualche ma modo sempre pungolata farsi a dovere. Più, una voce più grossa? Ma da quello che ci hanno detto, li abbiamo incontrati proprio la scorsa settimana sull'ipotesi del cartello anticoncorrenziale, hanno fatto degli approfondimenti e allo Stato hanno escluso che questo possa essersi verificato. È chiaro che gli operatori sono anche stati molto furbi, nel giro di 8-10 mesi si sono tutti allineati, non lo hanno fatto chiaramente nella stessa notte tutti insieme, sarebbe stato palese un cartello in questo senso. Sta purtroppo a noi consumatori fare un po' di autodifesa. Ad esempio noto che se è vero, a proposito di concorrenza, che tutti noi paghiamo i servizi di meno rispetto a 10 anni fa, questo è un merito del mercato liberalizzato, d'altro canto le sollecitazioni a nuovi consumi sono sempre dietro l'angolo. Avrete notato che adesso gli operatori della telefonia cominciano a vendere oggetti, e questo tra l'altro sarà uno dei temi del premio Dona di venerdì prossimo. Infatti, cioè stanno vendendo oggetti connessi ad internet, facendo leva su quella che è l'internet delle cose. E quindi vediamo che vendono termostati, vendono telecamere, vendono persino la scatola nera per la nostra auto. Per l'auto. Naturalmente questi oggetti non solo hanno un costo per acquistarli, ma hanno anche altri due costi che il consumatore non sempre riesce a comprendere, cioè quello per la connessione. Quindi è chiaro che se io avevo un servizio di connessione per leggere le email è un discorso, se oggi a questo servizio dati devo aggiungerne molti altri perché la mia casa è una casa piena di oggetti connessi, probabilmente dovrò pagare di più. Ma c'è un ulteriore costo che è quello che, con una parola bella, si chiama fidelizzazione, cioè io tengo legato a me il cliente, ma che poi nel momento in cui il consumatore ha da reclamare diventa un problema. Fino a ieri ci preoccupavamo dello smartphone a rate da pagare in un'unica soluzione. Devo dire che già per fortuna la giurisprudenza dell'antitrust era stata chiara nel dire che non poteva essere consigliato il recesso attraverso l'addebito di costi di promozioni o di hardware da pagare in un'unica soluzione, ma domani il problema sarà ancora più grave, perché io avrò la casa ricca di oggetti connessi che fanno la mia casa una smart home, come si dice oggi, ma il rischio è che poi sarò molto in difficoltà se devo cambiare operatore e fare buon uso della concorrenza. Quindi questo è un tema di grande attualità che ha a che fare con la modernità anche delle nostre abitazioni. Assolutamente. Allora, quindi per sintetizzare, sullo stop alle bollette a 28 giorni direi che la parola fine ancora non l'abbiamo scritta, dobbiamo raccontare probabilmente entro fine anno ancora la stiamo scrivendo una nuova puntata. Detto questo, visto che l'ha citato avvocato Don, appunto, ci racconti un po' meglio quest'anno su che cosa si concentrerà il vostro premio intitolato a suo padre Vincenzo Don, che abbiamo sempre ricordato è veramente il padre del consumerismo italiano. Appuntamento il 24 novembre, quindi fra 2 giorni, al Teatro Argentina. Parlerete di casa e di domotica, della casa intelligente. Ha purtroppo solo 40 secondi di tempo per raccontarcelo, ma ce la faremo. Tutti coloro che si trovassero a Roma venerdì al Teatro Argentina, la casa connessa, la casa domotica è ormai un presente per i consumatori. Naturalmente dal punto di vista dell'Associazione dei Consumatori non manchiamo di sottolineare alcune attenzioni, alcune cautele, ne cito una, quella della protezione dei nostri dati, perché questi apparecchi registrano una quantità infinita di abitudini, speriamo non siano usate contro di noi consumatori. Non si può dire naturalmente chi premiate quest'anno, è ancora presto. È ancora non una sorpresa, ma lo scopriamo ormai dopodomani. Grazie, grazie Avvocato Dona. Aperto. E io naturalmente adesso faccio un po' la splendida, ricordo che Salvadanaio qualche anno fa il premio Dona lo ha vinto, caro Mauro, adesso dobbiamo portarci due di denari. Ma sono così orgoglioso, guarda, allora sarò qui anche domani con te, l'Unione con una vincitrice nazionale del premio Dona. Grazie, grazie a tutti i nostri ospiti, anche a Luigi Gabriele che nel frattempo era rimasto ad ascoltarci. Noi torniamo domani, sì, chiudo Paolo, non ti preoccupare. Ciao Mauro, a domani. Ciao.